L'economista francese François Morin nel suo libro lancia la sfida di questi tempi. Attenzione, la prossima crisi finanziaria sarà l'ultima. Morin sostiene che questo accadrà perché gli stati non avranno più i soldi per ricapitalizzare le banche, come è accaduto finora. L'economista francese sostiene poi che a questo punto inevitabilmente il sistema finanziario, Wall Street, si troverà al collasso. E questo è il momento in cui la politica dovrà riprendere il controllo sulla finanza, in particolare mettendo al bando l'ingegneria speculativa nata negli ultimi 20 anni, e cioè i prodotti derivati. In quest'ultima parte dell'intervista Morin parla di due questioni: come il crack americano del 2008 si è trasferito in Europa e come in Europa si potrà eventualmente uscire dalle politiche di emergenza sui bilanci di questi ultimi anni. L'intervista. La crise financière a commencé par, en effet, la crise des subprimes aux États-Unis, mais il faut bien voir que les subprimes, la crisi finanziaria, in effetti, è iniziata negli Stati Uniti con la crisi dei mutui subprime. Bisogna ricordare che i subprime sono essenzialmente dei crediti. C'è stato poi un processo di cartolarizzazione di questi crediti. I prestiti fatti alle famiglie americane deboli sono stati trasformati in titoli finanziari attraverso il processo di cartolarizzazione. Questi titoli finanziari a loro volta sono stati poi integrati in quelli che vengono chiamati prodotti strutturati. Il sistema era quello delle bamboline russe, a diversi piani. I prodotti finanziari così congegnati sono stati distribuiti nel mondo intero, non solo negli Stati Uniti, ma in Europa, in Cina, in altri paesi. E così, una volta che i subprime sono divenuti un'attività tossica negli Stati Uniti, a causa della caduta del settore immobiliare e dell'aumento dei tassi di interesse, tutte le grandi banche che avevano comprato questi prodotti strutturati hanno visto calare il proprio capitale, poiché avevano comprato quei prodotti per sé e non per conto terzi. È per questa ragione che c'è stata una crisi nel sistema bancario a livello internazionale, che ha comportato la ricapitalizzazione delle stesse banche. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu une crise aussi au sein du système bancaire à l'échelle internationale. Alla fine dei conti gli stati che hanno dovuto ricapitalizzare le banche, che hanno dovuto spendere miliardi di dollari e di euro per sostenere l'attività economica a partire dal 2008, si sono sovraindebitati. Tra il 2007 e il 2011 l'indebitamento pubblico mondiale è aumentato del 45%. Dato il sovraindebitamento e data la situazione catastrofica in cui ci troviamo, i debiti sia negli Stati Uniti, sia in Europa e in Giappone, sono divenuti insostenibili. Ed è perciò che i mercati finanziari speculano su questi debiti, particolarmente in Europa, perché in Europa non c'è una governance che permetta di rispondere alla speculazione finanziaria. Oggi noi siamo in una situazione gravissima, annunciatrice di una prossima crisi ancora più grande. Dal momento in cui ci sarà un evento di crisi sul debito sovrano di un paese o su una grande banca, avremo una nuova catastrofe finanziaria, probabilmente gravissima. Dès qu'il y aura un événement de crédit sur une dette souveraine ou sur une grande banque, nous aurons une nouvelle catastrophe financière, probablement très, très, très, très grave. Per far fronte alla crisi in Europa i governi hanno deciso la strada dei tagli ai bilanci pubblici, la linea Merkel condivisa da Sarkozy si è imposta un po' in tutto il continente. In Francia adesso nel prossimo mese ci saranno le elezioni presidenziali, elezioni molto importanti, l'eventuale vittoria del socialista Hollande secondo lei avrebbe la forza per imprimere una svolta in Europa sulle politiche contro la crisi? En effet, il y a un contexte politique qui risque de naître de l'élection française et puis ensuite peut-être de l'élection allemande. In effetti c'è un contesto politico che rischia di nascere dalle elezioni francesi e poi in seguito da quelle tedesche. Le risposte alternative alla crisi attuale sono essenzialmente di due tipi. C'è quella socialista francese e forse anche della SPD tedesca, che consiste nel dire: accanto ai piani di austerità c'è bisogno di misure per rilanciare la crescita economica. Questa è una prima via che indica anche quanto sia necessario separare le attività speculative delle banche dalle attività di credito. È un'opzione che può risolvere momentaneamente il problema, anche se non cambiano le logiche che sono all'opera nel mondo finanziario da 40 anni. È un'opzione che permette di guadagnare tempo. 40 ans dans la sphère financière, mais on permet par cette voie-là en effet de gagner du temps. L'autre option, c'est une option de combat. contro la finanza globale. L'altra opzione è un'opzione di combattimento contro la finanza globale con delle riforme delle strutture di fondo. Bisogna cambiare il sistema di finanziamento dell'economia mondiale con delle nuove regole del gioco di cui ho parlato prima. C'è la questione monetaria, la tassazione delle operazioni finanziarie. Il cambiamento del sistema mondiale si pone non solo a livello mondiale, ma a tutti i livelli dell'organizzazione economica. Inoltre penso che ci sia anche la questione del finanziamento della transizione ecologica. Ci vogliono investimenti considerevoli di questo settore che devono essere programmati a livello di ciascun paese e di ciascun blocco regionale. Il va falloir des investissements absolument considérables qui doivent être programmés au niveau de chaque pays, au niveau de chaque bloc régional. Et le système de financement actuel par les marchés financiers ne permet pas aujourd'hui. Il sistema attuale di finanziamento attraverso i mercati oggi non permette di avere visioni di lungo termine che consentano tali investimenti. L'altra rottura che bisognerebbe dunque compiere è quella di andare in questa direzione della transizione ecologica, cambiare le regole del gioco, come dicevo prima, riguardanti le principali variabili di questa finanza, i tassi di cambio, di interesse, e poi in seguito a diversi livelli immaginare dei sistemi di finanziamento dove gli stati riprendano il controllo per prevedere a lungo termine gli investimenti necessari per finanziare la transizione ecologica. Les pouvoirs publics reprennent en quelque sorte la main pour envisager à long terme les investissements nécessaires pour financer la transition écologique.